Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: l'affare si ingrossa, dicemmo due giorni fa, in effetti oggi il Dieselgate, come lo chiamano ormai tutti i giornali al mondo, ha conosciuto l'ingresso di un nuovo partecipante. Devo dire subito che è arrivata anche una smentita da parte di BMW, e devo anche dire che le indiscrezioni, visto che stanno circolando molte ipotesi anche un po' complottistiche sulla vicenda Volkswagen, che le indiscrezioni che tiravano in ballo BMW come altra casa automobilistica che avesse emissioni fuori norma sono arrivate dalla stampa tedesca, quindi non c'è stato così un marmaldeggiare da parte di altri paesi, magari con case automobilistiche concorrenti. Lo ha scritto infatti il quotidiano Bild, Autobild per precisione, che avrebbe fatto un test su una X3 della BMW e X-Drive 20D, sarebbero state misurate emissioni 11 volte superiori ai limiti previsti dall'Unione Europea, non dagli Stati Uniti. BMW ha risposto che osserva i requisiti di legge in vigore in ogni paese e aderisce a tutti i requisiti di collaudo locale, però il titolo dopo la notizia ha preso una bella scoppola del 10% in borsa. E visto che parliamo di borsa, ricordiamo anche quello che è l'andamento a questo punto di alcuni titoli, poi arriveremo al listino completo, però vale la pena ricordare come da questo punto di vista complessivamente ancora oggi il mercato abbia più di un problema, vi arriveremo. C'è Standard & Poor's che ha detto che potrebbe essere da questo punto di vista rivisto il voto su Volkswagen, test truccati anche in Unione Europea. Questo dice il titolare del ministro dei trasporti tedesco Alexander Dobrindt, anche questo è importante, la fonte non è di un altro paese, è lo stesso ministro dei trasporti tedesco che dice: siamo stati informati che anche in Europa i veicoli Volkswagen con motori diesel 1.6-2.000 sono stati manipolati, e lo ha detto ufficialmente a Fox News. Per cui lo dice il ministro dei trasporti tedesco, adesso non possiamo mettere in dubbio anche questo. Allora, venendo alla borsa, dicevo, meno 2,33% oggi Milano, che fa il paio con Francoforte che perde il 2,30%, Parigi sulla stessa falsariga, meno 2,40%, l'America invece in questo momento sul Dow Jones perde l'1,50%. Tra i titoli segnalo oggi in positivo, dopo il calo molto forte di ieri, Monte dei Paschi più 4,40%. Sul Monte dei Paschi avremo anche un approfondimento, perché si è chiusa una parte della vicenda che riguarda il famoso scandalo del Monte dei Paschi con la sottoscrizione di strumenti derivati costosissimi, da lì poi l'accusa anche di tangenti, ricordate la banda del 5%. Il Monte dei Paschi di Siena ha chiuso oggi un accordo di transazione con Nomura sul famoso derivato Alexandria, paga 395 milioni, l'impatto sul conto economico è di 88 milioni come negativo al netto delle imposte. La transazione comporta uno sconto, chiamiamolo così, per la banca senese di 440 milioni di euro, quindi la transazione è andata a sconto come spesso si fa in questi casi, e questo avrà un impatto negativo su Nomura pari appunto nel secondo trimestre a 265 milioni. Ne parleremo più avanti, che il derivato Alexandria è uno dei due derivati al centro dello scandalo scoppiato nel 2013 e che ha portato all'inchiesta anche della magistratura. Al di là del Monte dei Paschi segnalo invece altri titoli pesantemente negativi, a partire da Fiat. Chrysler meno 7,74%, Boots Unice meno 6%, CNH Industrial, quindi Case New Holland, meno 5,50%, Exor, la controllante del gruppo Fiat, meno 5,40%. Parleremo di questo, quindi, anche del Monte dei Paschi, ma siamo di nuovo in diretta dall'Expo di Milano, padiglione della Regione Emilia-Romagna, accanto a Palazzo Italia. Davanti a noi una fila impressionante, come ogni giorno, di persone che attende di avere ingresso al Palazzo Italia. E ne parleremo col direttore di Palazzo Italia, perché è anche il caso di ricordare, c'è chi si lamenta, c'è un'espressione che è un po' volgare, non posso citare, però non è che si può dire che se c'è poca gente l'Expo è un fallimento, o se c'è troppa fila l'Expo è un problema perché c'è troppa coda. Insomma, non siamo mai contenti, altrimenti c'è una coda impressionante. E parleremo anche dell'organizzazione, delle facce che non si vedono, dei nomi che non appaiono nel gestire questo successo, comunque uno la pensi sull'Expo, questo successo di presenze di pubblico. Siamo tornati dopo due mesi, già venimmo a fine giugno, e siamo rimasti impressionati dell'aumento delle presenze che si vedono a colpo d'occhio. Quindi ne parleremo per capire anche come l'Italia ogni tanto può mettersi una medaglia anche sull'organizzazione, perché devo dire che sono file molto composte, molto educate. Sembra quasi di essere in Germania, no, diciamo che sembra quasi di essere in Italia, che in questo periodo è meglio. Notizie in breve. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. Continua la corsa del dollaro, questo è un caso nel caso, torneremo a occuparci di Brasile. Brasile è una difficoltà estrema e continua la corsa del dollaro nei confronti del real brasiliano, ha superato la soglia di 4 real per il terzo giorno consecutivo alla borsa di San Paolo. Nel frattempo oggi il Fondo Monetario Internazionale, relativamente all'Europa, fa notare che le banche europee hanno in pancia ancora livelli elevati di crediti deteriorati, non più esigibili, 1.000 miliardi nel complessivo, il 9% del PIL dell'Unione Europea, che ancora pesano e frenano, zavorrano la crescita. Nel frattempo però c'è stato un quinto round che è stato un flop dei famosi prestiti che la Banca Centrale Europea concede alle banche europee purché le investano nell'economia reale, cioè li prestino non per i mutui ma alle imprese. Si chiamano TLTRO, flop, dicevo, perché le banche, tutte le banche complessivamente dell'area euro, hanno chiesto appena 15 miliardi e mezzo di euro, l'ha comunicato la BCE. Le attese erano tra i 35 e i 120 miliardi, con una media di 70 miliardi, stanno chiedendo molti meno soldi di quanto potrebbero le banche europee. Ripeto, sono prestiti però vincolati al reimpiego nell'economia reale. Vedo molti messaggi sulla Volkswagen, ci arriviamo alla Volkswagen, addirittura ci sono dichiarazioni per cui, lo scrive oggi il Guardian, il quotidiano britannico, per cui Francia, Germania e Gran Bretagna avevano fatto pressione nel passato per annacquare i test di gas nocivi, avrebbero fatto lobby all'Unione Europea per mantenere l'escamotage dei nuovi testi. Anche qui vediamo di non fare le mezze vergini, è chiaro che l'industria dell'auto fa pressione, fa lobby per avere, diciamo, test, soprattutto quando produci macchine di grande cilindrata, che non ti vadano contro. Altra cosa però è sviluppare un software che abbia come unico obiettivo il truccare le emissioni, cioè sono due cose un po' diverse tra fare una lobby che non penalizzi il tuo settore e mettersi a elaborare software per truccare i dati sulle emissioni. Nel frattempo continua a perdere pezzi il consiglio di amministrazione di Volkswagen, hanno lasciato anche Wolfgang Hartz di Porsche, il rappresentante della quota Porsche, Ulrich Hakenberg di Audi, hanno lasciato il consiglio di amministrazione. Vicine le dimissioni anche, secondo quanto riporta la stampa, il direttore del settore sviluppo di Volkswagen, Heinz Jakob Neusser, sarebbe pronto a dimettersi, seguendo quindi l'amministratore delegato Martin Winterkorn. E sarebbe pronto a dimettersi anche il numero uno di Volkswagen negli Stati Uniti, mi sembrerebbe strano non lo facesse, Michael Horn, è quello che ha detto: abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una grandissima cavolata, abbiamo rovinato tutto. Winterkorn però, senza polemica, ma insomma non è che possa piangere troppo, va in pensione con 28 milioni e 600 mila euro e potrebbe anche andare sempre a Winterkorn una, due annualità in caso di uscita, insomma un totale di 33 milioni di euro. La parola spetta al board, cioè al consiglio di amministrazione, che potrebbe ridurre la somma, non lo so. Non so se questo sia il caso di dare il premio all'amministratore delegato, non mi interessa, è un gruppo privato, abbiamo sempre detto che noi interveniamo solo su quando i soldi sono pubblici e della pubblica amministrazione. Dopodiché c'è anche un tema di opportunità, se la Germania vuole cercare di dimostrare di essere diversa e guida, forse dovrebbe partire anche da lì, perché 33 milioni a uno che ti ha distrutto il titolo non sarà sta colpa sua. Beh, il numero uno eri tu. Allora mettiamoci d'accordo dove arrivano le responsabilità, e quindi sembrerebbe un po' strano, mettiamo così. Anche la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta su Volkswagen, sulle vetture in circolazione in Italia. I vertici, Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Italia, ha scritto al ministro Galletti: le nuove auto in Italia sono a norma, sono in corso i controlli su altri motori diesel. E poi ascolteremo anche, ma io questo pezzettino lo faccio ascoltare subito, poi torniamo sul tema. L'intervista è realizzata, l'abbiamo messa in onda anche ieri, ma voglio riprendere un piccolo estratto dalla nostra Livia Zancaner a Vincente Franco, che è il ricercatore della società americana ICCT, che ha condotto i famosi studi sulle emissioni negli Stati Uniti, che poi hanno portato all'esplodere dello scandalo. Lui ha spiegato che in Europa 11 macchine di 6 diverse case automobilistiche hanno emissioni pari a 7 volte il limite consentito in Europa stessa. Auguri. In Europa abbiamo ottenuto dei risultati molto simili, abbiamo raccolto dati per 12 macchine Euro 6 diesel e abbiamo visto delle emissioni alte per alcune di queste macchine. Questi 12 modelli di quante case automobilistiche sono? In tutto 6 diverse. Ovviamente abbiamo presentato questi risultati alla Commissione Europea, che ne era consapevole. Alcune di queste macchine vengono vendute anche in Italia secondo i dati che avete voi? Sì, sì, tutte le macchine che abbiamo testato sono macchine comuni Euro 6 che si possono acquistare in qualsiasi paese europeo. E poi la stampa spagnola che scrive che Seat, filiale spagnola del gruppo Volkswagen, avrebbe montato dal 2009 ad adesso oltre 500.000 motori diesel incriminati. È un verminaio, insomma, è stato facile immaginarlo già da lunedì, che insomma su una cosa del genere, o dimostravi che era proprio un caso specifico di Volkswagen negli Stati Uniti su quei modelli, o se no aprivi il vaso di Pandora e la stura a qualunque tipo di illazioni. Comunque andiamo avanti. Oggi è intervenuto anche il presidente di Fiat Chrysler, John Elkann, ha detto: sono particolarmente felice che Fiat Chrysler sia tra la società del mondo più rispettosa dell'ambiente, non voglio commentare un fatto specifico e molto grave, vedremo le indagini. E poi ha aggiunto che la produzione nel 2016 produrrà quasi un gruppo Fiat Chrysler quasi 1 milione di auto. Due ultime notizie positive, poi partiamo con il direttore di Palazzo Italia. Riguardano l'industria, vanno molto bene gli ordinativi all'industria, a luglio più 10% rispetto a un anno prima, grazie soprattutto ai mezzi di trasporto più 61%. Sono importanti gli ordinativi perché sono un indicatore che anticipa poi l'andamento del fatturato industriale, che comunque a luglio ha fatto più 2,3% rispetto a un anno prima. Bene anche il commercio con l'estero, qui il dato è di agosto. Però sono in flessione anche le importazioni. Il segnale di ripresa dei consumi a luglio segnalano un più 1,4%. In realtà le esportazioni, se guardate nei paesi extra UE, iniziano invece a far segnare un qualche problema dovuto al rallentamento di Brasile, Cina, India, la Russia già ce l'avevamo giocata, e infatti rispetto a un anno prima il dato grezzo è meno 3,2% nei paesi fuori dall'Unione Europea. Comunque sui consumi, su questi dati diffusi oggi dall'Istat, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alberto Orioli. Giornata ricca di indicatori economici che confermano la ripartenza dell'Italia. A luglio volano gli ordini all'industria su base annua con un più 10,4%, che è frutto di un aumento mensile degli ordini interni del 3,1% e di un calo di quelli esteri per un 2,9%. Ciò significa forse per la prima volta che la domanda interna sta davvero recuperando terreno, e questo è molto importante. Il dato, come accade da molti mesi, è trainato dalla performance brillante del settore auto, con un aumento degli ordini per il 63%, addirittura su base annua. Sempre a luglio sono aumentate anche le vendite al dettaglio, con un saldo mensile dello 0,4%, che significa un aumento dell'1,7% su base annua. Per la prima volta questo indicatore ci segnala un aumento negli acquisti dei cosiddetti beni di consumo, a cominciare dai prodotti alimentari, oltre a confermare il salto di quelli durevoli che è già iniziato da qualche mese. Anche questo corrobora la tesi di una domanda interna in fase di ripartenza. D'altro canto è fondamentale che l'Italia possa d'ora in poi contare sulla fiducia del mercato interno, anche perché l'export, che ha fatto sopravvivere la nostra economia durante tutto il tempo della crisi, sta cedendo un po' terreno. Il dato diffuso oggi è quello relativo ad agosto, che è comunque un mese poco significativo, ma segnala che l'interscambio con i paesi extra UE è calato dell'8% rispetto al mese di luglio. Pesa soprattutto il rallentamento cinese. Infine, un ultimo dato che conferma il cambio delle aspettative. Da aprile a giugno di quest'anno si è registrato un incremento del 6,8% nelle compravendite immobiliari. Lo ha annunciato l'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate. Se riparte il mercato della casa, l'Italia davvero può dire di aver voltato pagina. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Minuti di nuovo in diretta. Allora, qui dal, me lo chiedete, siamo nella regione Emilia-Romagna, nel Cardo, poco prima di Palazzo Italia, ma non a Palazzo Italia. Qui nei nostri studi c'è il direttore generale del Padiglione Italia, lo chiamo Palazzo Italia, in realtà sarebbe più corretto chiamarlo Padiglione Italia, che comprende anche Palazzo Italia e quattro edifici sul Cardo dedicati alle regioni, la Lake Arena, insomma il lago dove c'è l'albero della vita. E che è quello più visto, oltre che dai bambini, dai vari spettatori e partecipanti all'Expo. Dottor Stefano Gatti, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Prima domanda, così poi veniamo al lavoro che c'è dietro. Ma insomma, mi chiedono gli ascoltatori, ma le code enormi davanti a Palazzo Italia non stanno a segnalare che c'è un problema nella gestione, altrimenti... Voi, perché io vi ho visto... Racconto una cosa che forse darà fastidio. La mattina arrivate, voi intesi come dirigenti di tutta la struttura di Padiglione Italia, e come primo scopo cercate di fare opera di dissuasione con chi si mette in fila, che è una cosa strana, perché uno dovrebbe spingere le persone a entrare. Ma che, non vi aspettavate questo successo? C'è qualcosa che non funziona nell'organizzazione? Ma allora, innanzitutto io ringrazio, perché approfittiamo di questa occasione per sfatare un po' di miti, perché sennò... No, perché coda... uno mi dice, lei è un fenomeno, Barisoni, le code si formano anche per disorganizzazione. Va bene. Allora, prego. Diciamo in questo modo, innanzitutto noi abbiamo Palazzo Italia che è una mostra di grande successo, quindi la prima origine della coda è il successo, poi va gestita, la nostra responsabilità di gestire al meglio. Abbiamo una mostra che è una delle mostre più grandi dell'Expo, tre piani di mostre, dove le persone vogliono entrare, che ormai è uno dei luoghi più famosi, dalla Sala degli Specchi dentro Palazzo Italia, insomma uno li vede in telegiornale, li vede la televisione, vede Michelle Obama, vede tutto il mondo che va lì, ci vuoi andare. È ovvio che quello spazio è uno spazio finito, ha un certo numero di metri quadrati e non ci posso mettere dentro 20.000 persone in ogni determinato momento. Noi abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per accontentare più persone. Le dico, noi fino a metà dell'Expo, intorno a luglio, riuscivamo ad accogliere circa 12.000 persone. Adesso abbiamo trovato tutta una serie di soluzioni logistiche, più code, gli anziani 12.000 che entrano al giorno. Al giorno, stiamo parlando di ingressi al giorno, proprio perché la nostra mostra non è un aspirapolvere che tu entri esci, è una cosa dove si entra 45 minuti, si vedono tutta una serie di cose belle, ci si dedica del tempo e quindi ci vuole, insomma è veramente una mostra di alto livello. Oggi noi viaggiamo tra i 18 e 20.000 persone al giorno, quindi riusciamo, mantenendo il livello qualitativo della visita, perché alla fine uno, se ha fatto anche qualche ora di fila, non è che puoi arrivare in un posto dove non vede niente ed ha tutte, io ci ho messo dentro 20.000 persone al giorno solo dentro, noi riusciamo a fare visite ospitare 20.000 persone al giorno. Consideri che la media, il famoso padiglione del Giappone che ha ogni tanto queste code di 6-7 ore, ne fa 5.000 al giorno. Quindi noi facciamo 4 volte tanto e diamo quindi la possibilità a molta più gente di venire a vedere questa cosa. Quindi cominciamo a sfatare un po' di miti. Intanto ce ne sono 4 di code a Palazzo Italia. Uno è per le persone di più di 70 anni. Massima durata 35 nei giorni di massimo picco 45 minuti. Quindi è ovvio che noi ci dobbiamo occupare anche di chi ha maggiori difficoltà. Abbiamo una coda per i disabili e per le donne incinta e per le famiglie con i passeggini, massimo 15 minuti di coda. Poi ci abbiamo la coda per tutti quelli che, come dire, hanno la capacità di aspettare di più, quindi ci occupiamo anche delle categorie più svantaggiate, lo dobbiamo fare, e quindi non devono certo aspettare questo tipo di persone che l'ho appena detto tutto questo tempo. Le altre persone più giovani, che sono, hanno più possibilità, vanno su una fila. Oggi, faccio un caso, un giorno durante la settimana siamo a circa 2 ore e mezza di fila. Vero. Nel fine settimana arriviamo, i picchi del sabato, anche a 3 ore e mezza. Varia nel corso della giornata. Però il primo messaggio che volevo dire: cercate di venire da lunedì a venerdì, avrete delle attese e delle visite più breve. Se mi consente poi un altro punto importante. Prego. Noi abbiamo una coda che intratteniamo, quindi l'altro aspetto è che la coda davanti a Palazzo Italia è una coda felice. Beh, felice perché? Felice quando... Io dico perché noi siamo ogni giorno, infatti lo chiediamo, io sono con i miei collaboratori continuamente, parliamo con le persone, cerchiamo di capire qual è la loro situazione, di fare quello che è possibile. Dico felice intanto perché vanno a vedere qualcosa che è molto bello, e io sono qua da 4 mesi e mezzo, non ho ancora incrociato qualcuno che è uscito dalla mostra e mi è venuto a dire: guardi che lei mi ha fatto perdere tempo, questa è una cosa che non valeva la pena di vedere. Secondo luogo, noi abbiamo posizionato la coda in modo che sia davanti all'albero della vita. Se uno aspetta un'ora si vede uno spettacolo dell'albero della vita. Nel cortile, dove si fa l'ultima mezz'ora di coda, ci sono continuamente concerti. Oggi pomeriggio abbiamo il concerto dell'orchestra Casadei, abbiamo concerti di jazz, abbiamo arie d'opera, abbiamo i migliori giovani dei conservatori italiani. Avete trasformato anche la coda in un evento. Ho capito benissimo, Gatti. Due cose al volo, poi vado in pubblicità, le chiedo ancora. Dunque, il padiglione Italia, siccome ne parlammo a lungo dei ritardi dell'Expo, pensate che doveva essere costruito in 398 giorni, secondo l'appalto dell'impresa. La rincorsa ha fatto sì che lo costruissero in 200 giorni, questo per dire l'idea anche dello sforzo che avete fatto nel finale, uno sforzo che da solo vale quasi 6 milioni di euro. Il budget complessivo vostro è salito da 18 milioni e mezzo a 30 milioni e mezzo di euro. Come data record, quanto a Expo, resta ancora il 31 agosto con i famosi 3 milioni e 300 mila accessi per quello che riguarda l'Expo. Venduti ad oggi, qui il dato è un po' più, perché me lo chiedete, è un po' più vecchio, siamo a 14 milioni di biglietti, ma il dato era riferito ancora a 2 settimane fa. Ora, io non mi sono mai entusiasmato sui famosi 20 milioni vennero dati a suo tempo per vincere la gara, era una cifra già molto alta. A me più che 20 milioni, che poi siano 19 o siano 21, cambia poco, è se le persone che entrano poi trovano un ambiente disorganizzato che non funziona. Devo dire la verità, ma non perché siamo qua, non me ne frega nulla, abbiamo criticato l'Expo molto nella fase prima della partenza per i tempi, per gli scandali, per tutto. Devo dire che l'Expo è una bella prova di efficienza italiana, è molto pulito, qui il merito non va a voi in questo caso e basta, ma va anche a voi, Gatti. Tutti quelli però, che ci lavorano, che ci lavorano. Certo. È molto pulito, molto ordinato, non c'è nessun tipo di tensione di qualunque tipo, non sentiamo la cosa, classica cosa italiana di gente che si lamenta, lo dico perché è così, non è che posso dire cose che non ho visto. Dopo il metro, la pubblicità, invece, due rilievi che vengono fatti al Palazzo Italia, ma uno glielo faccio subito, poi mi darà la risposta dopo. Bellissima la sala degli specchi, l'abbiamo vista, così. Non c'è il tema dell'Expo, cioè è una grandissima promozione dell'Italia e Dio sa quanto questo paese ne ha bisogno, però il tema dell'alimentazione sostenibile non c'è, c'è la bellezza, il ben fatto, il bello italiano, non c'è il tema dell'alimentazione e della sostenibilità. La risposta dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dall'Expo di Milano, padiglione Emilia Romagna, davanti alla fila, non dico cosa le è arrivato, dottor Gatti, di gente, ma come fa a dire che si sta felici in fila? In effetti felici in fila è forse troppo, però, però la fila diciamo è ordinata. Teniamo la fila. La fila è ordinata e le avevo detto prima della pausa, però il successo è innegabile, il padiglione è più visto assieme a quello giapponese, per cui nessuno mette in discussione il padiglione Italia. Personalmente, qui dico da visitatore, è bellissima la Sala degli Specchi, bellissima questa presentazione dell'Italia nelle sue bellezze artistiche e naturali, bello e ben fatto, diciamo, ma anche completamente il tema della sostenibilità alimentare. Questa è stata una scelta voluta, cioè nel senso, voi avete pensato tanto, lo declinano poi gli altri padiglioni tematici? Allora no, e lei nella mostra trova una serie di cose. Noi partiamo dal principio di quelli che sono i punti di forza del nostro paese, le famose potenze, e ovviamente il punto di forza del nostro paese parte dalla bellezza, quindi uno non può evitare di parlare della bellezza del nostro territorio, della bellezza naturale ma anche quella realizzata dall'uomo, per poi arrivare, quindi andiamo poi dal secondo al terzo piano, dopo le grandi sale della bellezza, a approfondire il tema della nutrizione. Guardi che nella prima sala della mostra noi abbiamo questi 20 personaggi che sono l'Italia di saper fare, che sono 20 persone che esistono oggi normalmente, non famose, ma che fanno delle cose strabilianti in Italia, nel nostro paese, nel tema proprio della nutrizione e dell'alimentazione. Quindi dal migrante che è arrivato dall'Albania e oggi realizza uno dei migliori oli d'oliva nel nostro paese, dai pescatori, dalle soluzioni che i giovani stanno applicando nella campagna. Nel terzo piano poi abbiamo questa sala molto importante di tutte le innovazioni, le invenzioni degli italiani sul tema del cibo. Quindi noi ci andiamo sul tema della nutrizione, le piante con tutte le diversità regionali, però lo vogliamo prendere tra virgolette un po' da lontano. Tutto quello che noi facciamo nel tema della nutrizione, compresa l'alta cucina italiana, deriva dalla nostra cultura della bellezza, dalla nostra creatività, dal avere millenni di bellezza dietro di noi. Sa che c'è chi concetto. Scrive che lei venderebbe ghiaccio agli eschimesi. Non ci ho mai provato. Posso essere d'accordo, ma non è una critica di solito. Invece certo. No, seriamente mi scrive un ascoltatore che è un disabile bresciano e ha confermato l'efficienza italiana nel visitare, questo è molto importante, soprattutto per dare un segno di civiltà, l'efficienza italiana nel padiglione, ma i giapponesi sono molto più bravi e gentili, senza polemica, il Giappone non è uguale, benissimo. Va bene, ma insomma, lo dico da italiano, felici di arrivare secondi se il primo posto è al Giappone. Ancora due elementi però, ricordavo la rincorsa che avete fatto per allestire, come sempre in Italia si arriva sempre in zona Cesarini, però questo lavoro, il lavoro, diciamo, intanto c'è una responsabilità, adesso non voglio attirarmi le critiche. Però delle volte uno si può anche informare sulla cosa, chiedono molti ascoltatori perché non mettete dei segnali sui tempi di attesa della coda, e poi vorrei capire se mi dà anche un racconto di chi e quante persone lavorano per che tutto sembri così naturale, così normale, così poco italiano delle volte nell'efficienza che noi oggettivamente, non posso dire il contrario, vediamo qui all'Expo, non solo dentro Palazzo Italia. Allora, per far funzionare la macchina di Palazzo Italia stiamo parlando di circa 60-70 persone che lavorano ogni giorno, si danno i turni, si apre tutti alle 8 di mattina, si prepara per l'arrivo delle persone, le prime persone arrivano alle 9, letteralmente correndo da alcune degli ingressi all'Expo, e noi dobbiamo essere già pronti. Proprio sulle informazioni noi abbiamo i giovani volontari, che sono uno dei punti di forza della nostra Expo, 3 sempre fissi all'inizio della coda che danno le informazioni a tutte le persone che entrano in coda su esattamente i tempi d'attesa da quel momento. Non ridice questo, mi scusi? Ci sono 3 giovani volontari che sempre sono all'inizio della coda, quando uno arriva alla coda ti danno il tempo d'attesa e ti vedono, se sei una persona disabile con bambini piuttosto che più di 70 anni, ti indirizzano subito alle code, quelle preferenziali. Adesso dirò una cavolata, ma alcuni ascoltatori ci chiedono: ma perché non date un biglietto? Uno mi dice come dallo pizzicagnolo, dall'alimentarista, insomma, perché non ha un biglietto che così uno può andare a vedersi altri padiglioni, se vede che il tempo d'attesa è stimato in un'ora vado a vedere altre cose, torno dopo un'ora, se poi ho perso il mio slot sono cavoli miei, ma almeno non sto un'ora, due ore in fila, non siete d'accordo? Vedo tutti d'accordo fuori, gatti, attenzione. Allora, noi abbiamo chiamato le migliori società su questa cosa, perché bisogna essere esperti per queste cose. Diverse di queste sono venute e hanno guardato i numeri e ha detto: un sistema di prenotazione può funzionare da un museo, da pizzicagnolo. 20.000 persone in un giorno, loro dicono, è impossibile per questi numeri fare un sistema di prenotazione. In alcune expo precedenti è stato provato, e gli stessi giapponesi con cui ho fatto una riunione l'altro giorno hanno detto: noi non lo stiamo usando perché l'abbiamo usato nell'expo precedente, è stata una fonte di problematiche enormi. La gente, lei per esempio, in un'ora c'ha 1.000 persone che possono venire, gli dà un biglietto, viene alle 15, si presentano tutte 1.000, li può far entrare? No, fila. Quindi in ogni modo il biglietto non fa poi dovreste scadenzare arriva, tipo 15, qualcuno 5, arriva 15. Un'ora e mezza dopo e fa: ah, ma io c'ho il biglietto di tre, ma scusi, sa, c'ho avuto, ma quello si è sentito male, e vuole entrare lo stesso, litigata. Cioè alla fine la tensione era tale. In più, quando lei se io faccio le prenotazioni per l'Italia, alle 10 di mattina ho finito tutte le prenotazioni per il giorno. Lei vuole sentire cosa dice quello che arriva da mezzogiorno dopo essersi fatto 4 ore in autobus perché viene magari dalla Toscana, scende e dice no, Palazzo Italia è chiuso. Almeno chi c'è la fila ci può provarci. Ma non è che manchi anche un po' di informazione, o tutti quelli che arrivano in fila sanno esattamente cosa stanno facendo? Chiedo, No, beh, allora in alcuni casi, per questo noi abbiamo i 3-4 giorni ragazzi sempre sulla coda della fila. Qualche volta qualcuno arriva, si mette in fila, poi dopo un po' ti dice scusi, ma questa è la fila per cosa? Quindi è ovvio che uno deve. Cioè, la a fila, volte la fila attrae fila. La fila chiama fila. Ogni tanto qualcuno dice ma senta, questa è la fila all'albero della vita. Allora, precisiamo una cosa: per l'albero della vita non c'è fila. Per tutte le mostre sul padiglione Italia, da quella di Confindustria che si chiama Fat Food, bellissima, il padiglione del vino, spettacolare, non c'è fila o ce ne sono pochissime. Palazzo Italia, tutti vogliono vederlo e c'è fila. Le persone che vengono qui e che lavorano, come le avete formate? L'ultima domanda che ho per lei, perché noi immaginiamo sempre questi contratti dell'Expo come giovani ragazzi che vengono messi lì e sostanzialmente un po' sfruttati. In realtà devo dire che parlando con molte delle persone che operano c'è stato un lavoro di formazione dei singoli padiglioni, delle società che hanno fornito poi ai singoli padiglioni delle varie nazioni un lavoro molto alto di formazione, e lo si vede anche, devo dirti la verità, dalla professionalità che incontri quando chiedi, la gentilezza, sono tutte cose che non sono scontate in questo paese. No. Andate in giro in un ristorante o in altre situazioni e vediamo qual è il servizio che ottenete, in alcuni non ci mancherebbe, ce ne sono altri di eccellenti, ma che formazione gli avete dato? Allora, cominciamo a dire che io ho innanzitutto il cerimoniale dell'Expo con tutti i capi di Stato di Governo che vengono, 35 persone, parlano 17 lingue e la maggior parte lavorano con me da 5-6 anni, quindi, e ovviamente sono specializzati in politica internazionale, in lingue e quant'altro. E anche poi per l'operatività di Palazzo Italia noi abbiamo fatto la formazione insieme con il gruppo Manpower e tutti i contratti li abbiamo visti insieme con i sindacati, quindi sono certificati da questo punto di vista, qui non è esiste la possibilità di fare niente di tutto questo. Alla fine gli stessi volontari, che ovviamente fanno un lavoro volontario, hanno una cosa importante nel loro CV dopo che hanno fatto l'Expo e quindi li aiuteranno a presentarsi in futuro nel mondo del lavoro. Ultima domanda rapidissima, ce lo chiedono molti, devo dire che anche molti stranieri che abbiamo sentito dicono beh peccato, e anche molti italiani, vista l'efficienza, vista la metropolitana che arriva direttamente dentro l'Expo, l'alta velocità, la freccia rossa che arriva direttamente, tutto integrato, non sembra nemmeno di essere in Italia onestamente, e questa volta la battuta la faccio, peccato che tutto finisca, ma non è che state pensando a una proroga? Allora, l'Expo è una cosa internazionale, regolata da un trattato internazionale, l'Expo universale finirà il 30 ottobre, che poi una parte di questo, soprattutto la parte italiana che ha avuto un successo veramente incredibile, sicuramente maggiore delle nostre aspettative, possa rimanere dopo, come avete visto c'è un grande dibattito in corso e noi stiamo lavorando molto intensamente su questo. Allora, in bocca al lupo a lei, ai collaboratori di Palazzo Italia e soprattutto a queste centinaia di persone davanti a noi in coda, che non so se si divertono ma... spero che siano almeno contente dopo. Grazie a Stefano Gatti, direttore generale di Padiglione Italia. Allora andiamo sulla borsa adesso, che ha chiuso con un calo del 2,31%, poi veniamo alla vicenda Volkswagen, BMW e quant'altro, meno 2,31%, peggior titolo Fiat Chrysler, meno 7,5%, dopo il traffico 349-238-6666 per i vostri sms alla pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. minuti, i temi di borsa sono legati ai nostri approfondimenti, quindi vi dovrete accontentare di me. Monte dei Paschi più 4,45%, ne parliamo fra qualche minuto, e invece Fiat Chrysler, come dicevo, come tutto il settore auto sulla scia di Volkswagen, ma anche delle indiscrezioni poi smentite su BMW, malissimo oggi, meno 7,50%, Boots Unicem poi perde il 5,90%, CNH Industrial, Case New Holland meno 5,70%, si va a vendere anche per associazione di idee, perché non c'entra niente i camion e i trattori della Case New Holland, e poi Exor meno 4,60%, Moncler meno 4,5%, 4,12%, Tenaris pure e anche Ferragamo. Iux meno 4,12%, il 4% lo perde anche Steam Microelectronics. Su CNH in realtà pesa più che la vicenda per associazioni di idee della Volkswagen, pesa l'andamento del taglio delle stime sul fatturato e utili di Caterpillar e quindi sulla concorrente si va a vendere appunto anche CNH. Il settore costruzioni, secondo gli analisti, può subire un po' di correzioni perché è molto a corso. Sul fronte invece di chi ha guadagnato oltre a Monte dei Paschi non c'è nulla, c'è Mediobanca più 0,12%, ma è veramente poca cosa. Le altre borse, giustamente volete sapere come sono andate, Francoforte meno 1,90 nel finale, Parigi meno 1,90 anch'essa, l'America sta perdendo l'1,40%. Per quello che riguarda invece la parte di chi ha perso, ma non in maniera così massiccia, segnalo però anche Prismian ed Eni che perdono il 3,5%, Luxottica il 3,20%, Finmeccanica il 2,90%, come Atlantia, Enel meno 2,40%. Tentava invece un rimbalzo Enel Green Power, poi alla fine ha chiuso invariata. Ha acquisito la maggioranza di una società che opera l'energia rinnovabile in India, però poi alla fine meno 0,13%. Allora, per quello che riguarda invece l'andamento dell'euro, poco mosso oggi, lo segnalo nei confronti del dollaro statunitense, siamo a quota 1,12,58, insomma, oscilla sempre tra 1,11,70, 1,11,90, 1,12,58. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E con te parliamo del Monte dei Paschi di Siena, che oggi ha beneficiato, si vede nettamente nel listino, unica banca positiva e nettamente positiva, più 4,45%. Ieri ha perso moltissimo, però oggi c'è notizia, ha chiuso una vicenda delicatissima. Qualcuno ricorderà che quando scoppiò lo scandalo del Monte dei Paschi nel 2013 c'erano due prodotti derivati, Alexandria e Santorini, nomi esotici per prodotti pieni di robaccia dentro, che furono sottoscritti a suo tempo con un danno enorme per la banca, un vantaggio enorme per chi li ha venduti e l'ipotesi su cui indaga la magistratura di Tangenti, la banda del 5%, cioè di creste fatte perché la banca acquistasse quei fondi, quei prodotti, scusatemi, e chi li vendeva e chi li faceva acquistare intascava una percentuale chiaramente illecita. Il derivato fu originariamente acquistato da Siena nel 2005 da Dresdner Bank per 400 milioni di euro. Si trattava di un collaterale con un voto alto, AAA, un'obbligazione sostanzialmente garantita da mutui immobiliari. Dopo il crack di Lehman Brothers, il derivato si era svalutato del 30%. Cosa ha fatto Monte dei Paschi? Lo ha venduto a Nomura a un prezzo fuori del mercato e poi in cambio ha preso a Nomura BTP trentennali con l'impegno a ricomprarli a un prezzo più alto in futuro. Per farla breve, l'operazione si rivela svantaggiosa per Siena e genera in Monte dei Paschi perdite da 1 miliardo di euro. Ho 20 secondi, quindi Marco ti chiedo ancora un po' di pazienza perché devo andare a GR24 e poi tu ci spieghi l'accordo di oggi con Nomura, pagato 395 milioni di euro ha pagato il Monte dei Paschi per chiudere la transazione, a vantaggio di chi va. Ancora qualche minuto di pazienza, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dalla sede degli studi di Radio 24 al Padiglione Italia, all'Expo di Milano, accanto al Padiglione Italia nella regione Emilia Romagna, e davanti a questa fila che diventa sempre più lunga, a spanne saranno 300-400 metri almeno di fila, ma almeno. Devo dire che al di là di alcune critiche, vabbè, c'è chi si lamenta sempre, comunque. Doveva bastonare di più il direttore, ma perché gli abbiamo chiesto se non si poteva fare in altro modo, organizzare sta coda, e se l'offerta, al di là del mettere in evidenza le bellezze dell'Italia, non dovesse essere più concentrata sulla sostenibilità. No, mi scrive invece un'ascoltatrice, sono genitori di bambini di un ragazzo disabile, e criticano in maniera pesante il fatto che venga la fila per i disabili venga affiancata a quella con i passeggini. Adesso io non sono un esperto, però capisco l'obiezione. Dice: sono genitori di un ragazzo disabile, hanno 67-63 anni, devono sostenere la stessa fila di baldi giovani con passeggini. Nel padiglione del Giappone siamo entrati in 10 minuti, ma un giovane giapponese distingueva tra disabili, cioè carrozzine, e passeggini. Non mi sembra un'obiezione sbagliata, la giriamo agli organizzatori di Palazzo Italia. Vorrei tornare invece a bomba con Marco Ferrando sul tema Monte dei Paschi, Nomura. L'accordo firmato oggi, ricordavo prima del GR la vicenda, che vede Monte dei Paschi pagare 395 milioni per Transare, a vantaggio di chi va, Marco? Va a vantaggio della banca, perché smontare un derivato, cancellarlo, di fatto equivale a disinnescare una potenziale bomba. Come accennavi tu prima, i derivati risentono quotidianamente dell'andamento dei mercati, in questo caso è un derivato molto complesso che appunto gravava come una spada di Damocle sul bilancio del Monte. Non a caso, non dimentichiamo, la BCE nei mesi scorsi aveva imposto, o comunque insomma esercitato pressioni sulla banca perché appunto venisse in qualche modo disinnescata questa bomba. L'accordo firmato poche ore fa cancella questa cosa, e non a caso oggi Monte Paschi ha guadagnato il 4% in borsa, a differenza di tutti gli altri titoli bancari. Perché in realtà a questo punto la transazione è a sconto, cioè a vantaggio del Monte dei Paschi, Marco, per 440 milioni che non deve pagare. Esatto, infatti esatto. Diciamo Nomura li metterà a bilancio negativo. Esatto, infatti costerà Nomura. Poi non dimentichiamo, la trattativa andava in corso da tempo, e in ogni caso l'esito, al di là delle cifre, era nell'aria, e quindi sia Nomura che MPS nei mesi scorsi hanno già in parte contato questo esito, hanno quindi, come dire, messo a bilancio delle potenziali, dei potenziali costi. In ogni caso, i vantaggi per il Monte essenzialmente sono tre. Il primo è il fatto di avere un portafoglio a questo punto più equilibrato di titoli di Stato. Il derivato era su BTP a scadenza 2034, e quindi questo elevava la scadenza media dei BTP in portafoglio a Monte Paschi, che era doppia come durata media rispetto alle altre banche. A questo punto è invece di fatto si allinea con una durata media di 3 anni. E poi i benefici sono anche sul fronte della liquidità, perché proprio a copertura potenziale del derivato, Monte Paschi, certo, di fatto la presenza del derivato incideva negativamente per circa 500 milioni sulla posizione di liquidità, che a questo punto evidentemente si trasforma in un beneficio per la banca. C'è un costo, i 359 milioni come dicevamo, ma c'è un costo one off, quindi diciamo una tantum. Non a caso nella conference call che c'è stata oggi, i vertici del Monte hanno comunque detto che nonostante questo costo l'obiettivo del ritorno all'utile per il 2015 è confermato. Quindi tra i costi già messi a bilancio, quelli aggiuntivi che sono nell'ordine di 90 milioni in base all'accordo fatto appunto ieri notte, tra l'uno e l'altro comunque non dovrebbe essere pregiudicato l'utile per quest'anno, e per il Monte, che reduce da anni e anni di rosso, comunque una buona notizia. Bene, grazie anche a Marco Ferrando. E adesso, prima di arrivare al tema dello sviluppo del Dieselgate, invece occupiamoci come penultimo approfondimento delle pensioni e delle dichiarazioni arrivate oggi proprio in tema di riforma delle pensioni. Partiamo dal ministro Poletti, che oggi ha detto che l'intervento definitivo in materia di salvaguardia degli esodati avverrà dentro la legge di stabilità, ma ha anche confermato i 500 milioni di euro dentro la legge di stabilità per la salvaguardia degli esodati tra 2013 e 2014 sono lì e non sono destinate ad altro. La sede ideale non può che essere la legge di stabilità, all'interno della quale sono possibili compensazioni complessive di partite contabili, così da consentire l'utilizzo dei risparmi accertati nei citati termini e modi. In quella sede, più specificatamente, potranno effettuarsi le seguenti operazioni: verificare i risparmi relativi alle due salvaguardie non ancora chiuse e prevedere modi e tempi per una loro piena utilizzabilità. Recuperare i risparmi relativi agli anni trascorsi per consentirne l'utilizzo negli anni futuri coerentemente con le esigenze economiche di copertura delle misure che si intenderà adottare, definire le caratteristiche di un ulteriore intervento che abbia la finalità di affrontare in modo definitivo i problemi socialmente più rilevanti conseguenti all'entrata in vigore della legge Fornero, esaminare la questione inerente all'applicazione anche al corrente anno della cosiddetta opzione donna. Garantire la coerenza di questi interventi con le risorse derivanti dai risparmi accertati secondo la metodologia che è stata appena descritta. E poi su questo è intervenuto anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan in audizione presso le commissioni riunite di bilancio e lavoro alla Camera e al Senato. Al 10 settembre erano 121.500 le tra certificazioni accolte e le giacenze per quello che riguarda gli esodati e circa 83.400 le pensioni liquidate, ha detto Padoan, un numero parziale in continua crescita. E poi ha detto basti le azioni sulle risorse sottratte, il governo si impegna a ricercare eventuali soluzioni idonee sul piano delle regole di contabilità pubblica all'interno della manovra di bilancio. Ma basta continuare a dire che abbiamo sottratto risorse per gli esodati. Per quanto attiene le operazioni di salvaguardia chiuse, il governo si impegna a utilizzare le eventuali risorse disponibili accertate per gli anni futuri per dare copertura a un eventuale nuovo ma definitivo intervento in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'applicazione dei requisiti pensionistici di cui al DL 201/2011. Il Governo si impegna inoltre a ricercare soluzioni finalizzate al recupero delle economie accertate per gli esercizi pregressi e al relativo utilizzo per gli esercizi successivi, previa compensazione sui saldi di finanza pubblica nel rispetto degli obiettivi programmati. Quindi spero che questo dia fine a eventuali ulteriori illazioni su cosiddette risorse sottratte. Questi interventi potranno essere attuati nell'ambito della prossima legge di stabilità. Su questo è intervenuto anche il presidente dell'INPS, non tanto sugli esodati, anche se ha detto che è indubbio che le norme del 2011 hanno bloccato moltissime donne al lavoro, allontanando per loro la prospettiva di andare in pensione. Ha detto se si vuole tener conto delle variabili di genere occorre una maggiore flessibilità per la parte femminile e poi ha ricordato e quindi sarebbe importante non ripristinare i vecchi requisiti di anzianità contributiva vantaggiosi per gli uomini e poi ha ricordato che la spesa media per le prestazioni pensionistiche per gli uomini è più alta del 40% in media rispetto a quelle che vengono date alle donne. Innanzitutto vorrei partire dal aggiornare un dato che noi avevamo fornito recentemente in un nostro rapporto riguardo diciamo alle sproporzioni presenti nel trattamento riservato dal sistema pensionistico a uomini e donne. Al 31 dicembre del 2014 le donne rappresentavano il 52,9% dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, e a fronte di questa diciamo sovrarappresentazione delle donne nel sistema pensionistico, la spesa previdenziale destinata a donne era del 44%, per l'esattezza 44,2%. Quindi questo ci dice già, siccome il numero di beneficiari più alto femminile, spesa inferiore, è che la spesa media per prestazione è più alta per gli uomini che per le donne. In particolare questa era al 2014, diciamo che mediamente le pensioni degli uomini sono del 40% più alte di quelle delle donne. Su questo piano c'è stata una parziale riduzione nel corso del tempo, però molto contenuta. Vi dico che nel 2006 era del 44% più alta degli uomini, adesso è attorno al 41%. Adesso andiamo con le informazioni sul traffico, poi parliamo di nuovo dell'aggiornamento sullo scandalo Volkswagen o Dieselgate. Come viene detto, qualcuno mi scrive ancora sull'Expo, certo che pagare i 37 euro di biglietto per vedere in una giornata due padiglioni non è accettabile. Allora, attenzione, se tu vieni qua per vedere il padiglione italiano e quello giapponese, non dico che ti va via una giornata, ma quasi, ci sono tanti altri padiglioni, non voglio fare pubblicità, ma insomma, che meritano di essere visti e hanno code, o non le hanno, le hanno minori. Adesso non si può vedere tutto. Comunque dai, traffico. Focus Economia. Ieri la nostra commissione d'inchiesta è stata a Wolfsburg per un colloquio nella sede di Volkswagen. Siamo stati messi al corrente del fatto che anche in Europa sono stati messi in circolazione dei veicoli con motori diesel 1006 e 2000, sospetti di essere stati oggetto di test manipolati. Lavoreremo intensamente assieme ai vertici di Volkswagen per capire di quali veicoli si tratti esattamente e, appena possibile, renderemo pubbliche queste informazioni. Ovviamente la motorizzazione promuoverà un'inchiesta che non si limiterà soltanto ai modelli sospetti, ma si estenderà anche ad altri veicoli, compresi quelli di altri produttori. Oh, questo che ha parlato non è un personaggio qualunque, né l'amministratore delegato di un concorrente di Volkswagen, è il ministro tedesco dei trasporti Alexander Dobrindt, che ha annunciato, attenzione, siamo giunti a conoscenza che anche in Europa i veicoli con i motori diesel 1006-2000 sono stati manipolati, test truccati anche in Europa. Non a caso poi Standard & Poor's dice che potrebbe ritoccare il rating di Volkswagen, smentita dalla BMW invece il coinvolgimento, che riportava sempre una rivista tedesca, Autobild, e diceva che anche BMW avrebbe taroccato le emissioni per alcuni modelli, l'X3, l'X Drive 2000. Smentisce la casa, appunto, il gruppo BMW ha smentito. Siamo in collegamento con Alessandro Merli, corrispondente Sole 24 Ore a Francoforte. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi. Ascoltiamo prima di farti commentare anche l'intervento della portavoce della Commissione Europea per il mercato interno, Lucia Codé, che ha detto: ora serve un chiaro della situazione e faremo presto una riunione con le autorità di omologazione nazionali. What is really necessary now is to have the full picture of the situation. Ciò che è assolutamente necessario in questo momento è avere l'esatta fotografia della situazione e, in secondo luogo, continuare a perseguire e rafforzare gli standard contro l'inquinamento atmosferico. Incoraggiamo tutti gli Stati membri, oltre a quelli che lo hanno già fatto, a compiere le necessarie indagini. Dobbiamo avere il quadro completo di ciò che sta succedendo e sapere quanti veicoli in Europa sono stati equipaggiati con il software in questione. questione, che lo ricordiamo è bandito dalla legge europea e dai regolamenti fin dal 2007. Siamo pronti a facilitare lo scambio di vedute e informazioni fra le diverse autorità, che devono poi riportare a noi il risultato delle indagini. In questo modo andremo a fondo del problema. Il ruolo della Commissione è quello di una piattaforma per facilitare lo scambio di informazioni fra le autorità dei diversi paesi. Allora, Alessandro Merli, quanto è sotto shock la Germania? Oggi BMW ha smentito, ma abbiamo visto dichiarazioni del ministro dei trasporti e altre indiscrezioni che arrivavano sempre dalla stampa tedesca. E quanto è anche sotto shock per questa buonuscita a Wintercon da 33, che potrebbe arrivare fino a 33 milioni di euro? Cos'è, una Germania che si risveglia un po' italiana? Beh, senza dubbio il fatto è clamoroso. L'auto è uno dei grandi totem, uno dei grandi elementi della vita dei tedeschi, e quindi è molto centrale alla vita del paese. E Volkswagen, non a caso, vuol dire l'auto del popolo, ancora più di BMW, di Mercedes, che sono le auto che danno l'immagine dell'industria tedesca all'estero. Per i tedeschi, insomma, è proprio l'auto dei tedeschi. Il fatto che abbia, diciamo, imbrogliato per così a lungo su una cosa così importante a sua volta per l'opinione pubblica tedesca, che è quella delle emissioni e dell'ambiente, è un fatto chiaramente dirompente. Poi c'è la preoccupazione per la ricaduta economica di questo fenomeno. È limitato alla Volkswagen e solo ai modelli di cui si dice per il momento. A proposito, Volkswagen pubblicherà finalmente domani un elenco completo di tutti i modelli coinvolti, oppure è un fenomeno più diffuso che può colpire l'immagine non solo di Volkswagen, ma diciamo dell'industria automobilistica tedesca in genere e addirittura del Made in Germany. Quindi sono domande che i tedeschi si fanno e abbastanza con notevole preoccupazione. Insomma, non dimentichiamo che l'auto rappresenta circa un decimo dell'industria tedesca, cioè automobili e componenti per auto sono l'11% dell'industria tedesca, quindi poco meno del 3% del PIL tedesco. L'export di auto è un quinto dell'export totale tedesco, quindi una macchina da esportazioni evidentemente molto molto importante per l'economia Mamma tedesca. Mia. Eh sì, e tra l'altro oggi la stampa spagnola, Il País, dice che anche la SEAT, la filiale spagnola del gruppo Volkswagen, avrebbe montato dal 2009 oltre 500.000 motori diesel incriminati nello scandalo delle emissioni. Mi sembra che comunque va riconosciuto, la stampa tedesca stia picchiando duro, ed è l'ultima domanda che ho per te, Alessandro, su questa vicenda. Cioè non si sta trincerando dietro una forma di, non dico nazionalismo, ma cerchiamo di mettere un po' di polvere sotto il tappeto. Sta andando durissima su tutto insieme, anche di possibili conseguenze. Beh, forse anche perché, come dicevo prima, è il caso dell'amante tradita, cioè l'opinione pubblica tedesca è talmente innamorata delle sue automobili e in particolare della Volkswagen, che un tradimento così grave si riflette poi nell'atteggiamento della stampa, che senza dubbio è stata molto molto pesante nei confronti di quello che è successo alla Volkswagen, e non si è tirata indietro dal chiedere che venga fatta piazza pulita non solo con le dimissioni di Wintercorn, oggi ne sono state annunciate altre due, sì, ma con un repulisti vero e proprio di tutti i responsabili. A proposito, la notizia di oggi naturalmente è anche che al posto di Wintercorn dovrebbe insediarsi Mattias Müller, che numero uno di Porsche, è il capo della Porsche, è da 40 anni nel gruppo, quindi anche lui. Quindi non è proprio, è una mezza vergine. Senti, Alessandro, in una battuta, perché stiamo chiudendo, lo scandalo rischia di avere conseguenze pesanti anche sul governo Merkel, o obiettivamente la linea presa dalla cancelliera per ora la mette al riparo? Ma come sempre la Merkel è attendista in questi casi, ha detto ben poco. È anche un verbo in Germania, prima, tu Merkel. Esatto, è diventato un neologismo che sta nei vocabolari. Indubbiamente il governo ha tutto l'interesse a che si faccia chiarezza il più presto possibile su questa vicenda, perché come dicevo le possibili ricadute sul resto dell'industria dell'auto e addirittura sul Made in Germany e quindi sull'economia possono essere, è troppo presto per dirlo, ma possono essere gravi. Devastante. Grazie, grazie anche Alessandro Melli in collegamento con noi da Francoforte, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Brisoni qui dall'Expo di Milano le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.